Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ci sono persone che con i loro colpi d'ala sono riuscite non solo a cambiare le cose in generale, ma sono state capaci di rivoluzionare il proprio campo, la loro sfera d'azione. Noi ne abbiamo parlato: scienziati, esploratori, sportivi, uomini di spettacolo, magari uno con un microscopio, uno con una imbarcazione o uno con un nuovo modo di saltare o di correre o di calciare un pallone. Bene, il protagonista di oggi lo ha fatto con un microfono, proprio come quello attraverso il quale io vi sto parlando in questo momento. Welcome to the Howard Stern Top 10 Countdown Show. È l'uomo che ha rivoluzionato il mondo della radio, che ha scandalizzato, che ha osato, che ha spostato il limite dell'accettabile sempre un po' più avanti, che ha introdotto le follie, le parolacce, i temi scottanti, che è stato amato e odiato al tempo stesso. Un marchio di fabbrica, Howard Stern, una vera e propria leggenda della radiofonia, grazie al suo Howard Stern Show, che è andato in onda in tutti gli Stati Uniti dall'86 al 2005. Ancora oggi è disponibile per gli abbonati via cavo. E lui stesso racconta che la passione per la radio e la volontà di lavorare in questo settore sono nate presto, perché a 5 anni, forse un po' per colpa del lavoro del padre, che era un tecnico del suono proprio in una radio di Manhattan, un imprinting che Stern ha raccontato nel film Private Parts del 97, una pellicola in cui tra l'altro ha interpretato se stesso. Mio padre, Ben Stern, faceva il tecnico del suono in una radio a Manhattan, la WHOM. Perché viviamo a Roosevelt se lavori a New York? Sta zitto! Non abbiamo mai giocato a baseball né visto una partita. L'unico sport che gli piaceva era urlare. Nient'altro che porcate. Anche questa è una porcata. Non fare l'imbecille. Howard Stern nasce il 12 gennaio del 54 nel quartiere di Jackson Heights, nella zona del Queens a New York. È il secondo figlio di Bernard e Ray, è una famiglia ebrea di origini austro-ungariche. La madre è una casalinga, il padre, l'abbiamo detto, è un tecnico del suono a Manhattan e è anche un proprietario, coproprietario di uno studio di registrazione che produce cartoni animati, spot pubblicitari. Lui ha una sorella più grande, è quella tranquilla, Helen, quella da cui aspettarsi protezione, e lui invece è quello discolo. Lui è, per esempio, ha una predilezione per le marionette fin da piccolo, fa spettacolini per gli amici, per i parenti, e grazie alla sua esuberanza in questi piccoli show scopre rapidamente il concetto di censura operato dal padre dopo una sua rappresentazione un po' sopra le righe. Per i miei 12 anni mia madre mi regalò dei burattini e ben presto cominciai a spargere gioia su tutta la comunità. Oh, amore, sì, la voglio, dammelo tutto, ancora! Ti piace, eh? Oh, sì! Più forte! Lo vuoi più forte? Oh sì, più forte, ti prego! Dammelo tutto, ti prego! Ah, ah! Ma perché non posso giocare con i burattini? Sta zitto, lo sai bene perché. Howard prende lezioni di pianoforte, ascolta poco la radio, ma gli basta accompagnare il padre al lavoro per innamorarsi della radiofonia. Non vuole diventare disc jockey, cioè non vuole essere quello che va lì, mette i dischi e li commenta. Lui è affascinato proprio dai conduttori, dalle cosiddette voci. Conosce gente come Bob Grant, Brad Crandall, che negli anni 60 sono i numeri uno al microfono. E a 10 anni il padre comincia a capire, gli regala un registratore a nastro e con questo strumento magico, almeno per lui, lui registra il suo personalissimo radio show. La prima esperienza vera arriverà alcuni anni più tardi, alle scuole superiori, nella radio del college, dove mette la musica, legge le notizie, comincia a condurre qualche intervista. Beh, non è un'esperienza esaltante perché la radio non è molto ascoltata, lui non mostra grandi capacità e in più è un po' quello che si definisce un nerd, è alto 1,90 m, è magrissimo, ha una capigliatura piena di ricci, il naso aquilino, però è proprio in quel momento che la sua vena anticonformista e politicamente scorretta comincia a emergere. Insieme a 3 compagni di college mette in piedi uno show comico settimanale che viene cancellato per uno sketch dal sapore razzista dal titolo Godzilla Goes to Harlem, Godzilla va a Harlem. Siccome avevo un batocchio minuscolo, mi sono dato alla droga. Purtroppo la droga mi ha fatto diventare paranoico. Ah, guarda, sento odore di fumo, per caso stai fumando? Qui non c'è fumo! E in quegli anni di college, come quasi tutti i ragazzi americani di quella generazione, sperimenta le droghe, la marijuana, il Keluz, fino a dosi massicce di LSD e smetterà dopo una pericolosissima overdose proprio da LSD, perché insomma con gli allucinogeni bisogna andarci un po' coi piedi di piombo. E la strada però intanto è decisa, perché nel 74 viene ammesso alla scuola pubblica di comunicazione. Nel frattempo prende un diploma al Radio Engineering Institute of Electronics a Fredericksburg in Virginia, un passaggio fondamentale poiché prende la licenza necessaria per lavorare alle trasmissioni radio televisive. Si laureerà con lode nel maggio del 76, pronto a cercare lavoro nel mondo della radio. Insomma, inizia la sua carriera dietro al microfono. Il falco e il gabbiano. Se si potesse stilare una classifica degli eroi della radio, il nostro protagonista sarebbe di certo in vetta, perché stiamo raccontando Howard Stern, conduttore radiofonico che ha stravolto i canoni del suo settore negli anni Ottanta, si è guadagnato l'odio, l'amore degli ascoltatori. È un uomo che ha fatto della provocazione, del superamento di ogni limite fissato dal politicamente corretto, la sua cifra stilistica. È una specie di marchio di fabbrica che l'ha portato a diventare il conduttore radiofonico più popolare di un ventennio. Lui è laureato in comunicazione, ha in mano una licenza fresca fresca per lavorare nel broadcasting, si mette alla ricerca di una stazione radio che lo assuma. È la metà degli anni 70, lui è volonteroso però e non è certo delle sue capacità, comincia a rifiutare per timidezza le prime offerte. Andavo fuori di testa. Ero così nervoso da fare pena, non ero abbastanza bravo. È così eccessivamente prudente da accettare un lavoro di marketing in un'agenzia pubblicitaria di New York. Viene licenziato a tempo record e questo gli serve per capire che non deve mollare il suo sogno originale. Grazie al sostegno della madre della fidanzata di allora, trova un lavoro in una radio che si chiama WRNW, sarebbe WRNV, e da questo momento ne sentirete di sigle. D'altra parte, gli americani sono abituati a, invece che inventarsi dei nomi suggestivi, a dare queste sigle. Stiamo parlando di un popolo che chiama le strade con i numeri, la 24esima, la 25esima, perché non hanno sufficienti persone per dedicare loro le strade. Comunque, il primo lavoro gli frutta $96 alla settimana, che presto diventeranno 250 quando verrà promosso direttore dei programmi. La sua rapida ascesa non è tanto determinata dalla sua resa al microfono, dove per ora è piuttosto ordinario, è fiacco. Colpisce per la sua puntualità, per la sua professionalità. Nel 79 è il suo periodo di impegno forsennato, 4 ore al giorno di trasmissione, poi altre 4 a produrre gli spot, come se non bastasse, al sabato ha una striscia di 6 ore a cui segue un altro lavoro per la parte commerciale, e la domenica conduce una trasmissione del mattino. Insomma, è un vero e proprio stacanovista, però lui è contento e al limite dell'esaltazione. Quella trasmissione rappresentava esattamente quello che volevo fare in radio, più di ogni altra cosa, prendere l'uomo medio e sezionare quello che fa. E nel 1980 Stern accetta un lavoro in una stazione radio di Detroit, WWWW, sarebbe 4 volte W, pensate là. Fantasia, ma non è soddisfatto del suo approccio al microfono, non gli piace ancora il suo stile, è insicuro rispetto alla sua voglia di attrarre il pubblico. In quel periodo matura una convinzione: deve mettersi in gioco di più, deve rispolverare la sua vena provocatoria. 106 FM WWWW. Non so, mi scattò qualcosa dentro. Mi chiamo Howard Stern e vi do il benvenuto al nuovo programma del mattino. Abbiamo un nuovo servizio per voi, è una cosa davvero speciale. Un elicottero che segnala il traffico qui alla WWWW. Saliamo su da Mamma Luca Bubu Day. Trafficottero, mamma, ci sei? Sì, Ciao, qui parla mamma Luca Bobudei, l'unica sorella nera a dare il bollettino del traffico nella zona di Detroit, posso dire con orgoglio. Dimmi, com'è la situazione del traffico? Prima una dichiarazione politica, se permetti. Uccidi, uccidi, uccidi. L'uomo bianco. Da Eugene, mamma Luca Bobudei. Eugene è il mio nome d'arte perché questa l'ho scritta mentre mi bucavo un'arteria. Ok, allora. Uccidi, uccidi, uccidi l'uomo bianco. E la scommessa sembra funzionare. Più le parole sono irriverenti, scorrette, provocatorie, più la trasmissione si fa notare e di conseguenza gli ascolti salgono. Il percorso alla www si interrompe però quando la stazione decide di cambiare genere musicale, passando dal rock al country. Lui non si sente a suo agio, si licenzia e si sposta, va a Washington alla WWDC, una radio rock style, dove lui inizia a lavorare nel marzo dell'81. Vuole migliorare il suo show, vuole fare un salto in avanti, fa assumere una giornalista, Robin Quivers. Questa ottima professionista ha uno spiccato senso dell'umorismo, insomma inizia un sodalizio che durerà anni e che aiuterà Stern nella sua scalata al successo. Pensavo di dover entrare in onda a un certo punto e leggere il notiziario, ma non andò così. Howard voleva qualcuno da coinvolgere, con cui giocare. Voleva una persona vera lì con lui. Il gioco che Stern mette in atto con Robin Quivers è quello di provocare non solo il linguaggio esplicito, ma soprattutto temi intoccabili, il sesso, oppure addirittura un nervo scoperto come i morti in Vietnam. Avrò ucciso 200 bambini. Quello stronzo del mio tenente si avvicina e dice: Stern, quelli sono bambini, valgono un morto solo. Howard, io sono stata militare. Ero capitano dell'aeronautica. Tu cos'eri? Io cos'ero? Ridimmi cos'eri tu. Io ero capitano. È quello che ero anch'io, ero capitano. E dov'eri? Ero in Vietnam. Oh, nell'esercito, nella marina? Nell'esercito. Di che divisione eri? La 103. La 103 cosa? Ero nella 103, ma che ne so, e che cos'ero, Robin? Ma ti ho detto che ero nella 103, ma il punto di tutto questo è che io penso che un morto è un morto è un morto. E stecchire un bambino dovrebbe valere quanto stecchire un adulto. Insomma, veramente scorretto, e siamo agli inizi degli anni Ottanta. Lui scopre che più alza l'asticella e più crescono gli ascolti, e così per fare il suo show inizia una vera e propria battaglia quotidiana con i manager della radio che cercano di imbrigliarlo, di limitarlo. Sarà una costante della sua storia professionale. Lui però non si ferma. Lo show in coppia con Robin continua a avere successo, va oltre le migliori aspettative. Nel gennaio dell'82 la sua trasmissione arriva al secondo posto tra i morning show dello Stato. Stern è pronto a un salto ancora più importante verso popolarità, successo, denaro e soprattutto molti guai. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di una leggenda della radiofonia, Howard Stern, l'uomo che ha portato nella radio americana la provocazione come stile, uno capace di irritare i suoi ascoltatori fino all'odio, ma anche di conquistare il cuore di milioni di affezionati con la sua trasmissione più longeva, l'Howard Stern Show, che è ancora oggi in onda. È una trasmissione diventata un vero e proprio fenomeno culturale, un fenomeno di costume. Per più di un decennio ha elevato Stern a livelli altissimi di popolarità. E così, dopo aver scandalizzato e conquistato il pubblico a Washington, nell'82 Stern mette a segno il colpo della vita, un contratto quinquennale da $1,000,000 con la WNBC, la radio della NBC a New York. Una partita ben più complicata e impegnativa di quelle giocate fino allora da Howard, intanto per il livello del pubblico e poi per l'emittente, un rapporto complicatissimo soprattutto con il management della NBC, che si era reso conto forse troppo tardi di aver portato in casa un uomo indomabile. Gli vietano di usare le parolacce, provano a farlo, ma lui fa diventare un gioco anche quel divieto. Ok, continuiamo. Adesso il gioco si fa un po' più difficile, ok? Tutti pronti? È un pugno e finisce con TTO. Un pugno TTO. Quali sillabe mancano? Pensateci anche voi mentre i personaggi scrivono. Ecco fatto, cominciamo da Dick Nixon, il nostro ex presidente. Cosa ha scritto? Chi meglio di uno che sta in testa può riconoscere un cazzo? Facile! Cazzotto! L'avrei detto anch'io, era proprio la risposta più ovvia. Ora passiamo al nostro caro Jackie la risata Matling. Jackie la risata? Gene, anch'io ho scritto cazzo e l'ho scritto grosso. Qui un bel cazzo grosso. Non credo si possa dire cazzo grosso per radio. Mi sa che è una brutta cosa. Insomma, non solo non si adegua ai divieti, alle direttive, soprattutto riguardo a sesso e religione, ma li usa per prendere in giro quelli che gli hanno vietato il turpiloquio e quindi alza la sua asticella. E dopo 4 mesi dal suo ingresso alla WNBC, lo show è già nel mirino dei manager del network. Discutono di una possibile rescissione del contratto, ma loro sono convinti di poter imbrigliarlo, decidono di andare avanti con delle contromisure. Per esempio viene ingaggiato un avvocato dotato di un pulsante capace di staccare il segnale della trasmissione nel caso ritenga che il limite sia superato. Lui viene sospeso diverse volte, come risposta fa diventare bersaglio dei suoi sketch anche il direttore dei programmi Kevin Metheny, che definisce in onda pig virus. Nonostante tutte le restrizioni e la guerra aperta con i vertici del suo stesso network, gli ascolti salgono vertiginosamente, forse proprio per quello. La formula è inedita e vincente. L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. Nel maggio del 1984 Stern viene consacrato nello show televisivo per eccellenza, quello di David Letterman, proprio sulla NBC. E lo stesso Letterman, peraltro, è spesso in polemica col suo network. Insomma, il risultato è un durissimo attacco al manager dell'emittente. Dunque, Howard, lo sai, io ti ammiro, mi piace molto quello che fai. Sei un pioniere, sei all'avanguardia nello spettacolo radiofonico. Io e te lavoriamo tutti e due per la NBC. Tu hai lo show radiofonico, io questo piccolo show televisivo. Come ti trovi con la gente qui? Ti piace l'esperienza? Detesto la NBC, Dave. Veramente? È tremenda, fa schifo, dico sul serio. Tutti i dirigenti della NBC sono un branco di carogne e non ho paura a dirlo qui adesso. E sai, Dave, è buffo perché so che anche tu la pensi come me sulla NBC. Perché me l'hai detto al telefono la settimana scorsa che la pensi come me. No, potrei essere più felice qui, va tutto a meraviglia. Non li capisco neanche un po'. Nel 1985 viene licenziato dal network nonostante i record d'ascolto. È in attesa di un nuovo ingaggio a New York, dove dice di voler rimanere per prendere a calci in culo la NBC. Intanto tiene spettacoli nei club della Grande Mela insieme alla Kivers e alla fine arriva anche l'offerta. Viene ingaggiato dalla WXRK, l'emittente che nei 20 anni successivi consoliderà la sua posizione di conduttore radiofonico più popolare del paese. Sì, perché lui è l'uomo dei record, è il conduttore più multato della storia della radio, si contano multe per oltre 2,5 milioni di dollari, sempre per oscenità e volgarità. E poi ha più volte frequentato la televisione conducendo svariati late show, ma solo quando i bambini vanno a letto. E il suo percorso non ha subito battute d'arresto. Soldi, fama, carriera, è stato premiato 8 volte dalla rivista Billboard come personaggio radiofonico dell'anno e nel 2004 ha stabilito un bel primato, un contratto record da 500 milioni di dollari con Sirius, un colosso della radio satellitare a pagamento che ha voluto Stern il suo show in esclusiva. Nel 94 si è candidato anche a governatore di New York, si è lanciato per mesi in una campagna elettorale molto grintosa. Let the race begin. Che la corsa abbia inizio è la dichiarazione di Howard Stern sulla campagna elettorale a cui ha intenzione di partecipare, aggiungendo il suo nome per la corsa alla poltrona di governatore di New York. Who do you want for governor? Migliaia di fan di Stern grideranno senza dubbio il loro sostegno ad ogni fermata della città, ma i suoi nemici faranno in modo che incontri degli ostacoli lungo il suo percorso. Credo che sia un corrotto e penso che dovrebbe essere escluso e che nessuno dovrebbe sostenere la sua candidatura. Va bene in radio e in TV, è un ottimo intrattenitore, ma non credo che abbiamo bisogno di intrattenitori in città. Quella corsa non l'ha vinta, ma deve essersi divertito parecchio, come quando ha scritto i suoi libri sulla sua vita, Private Parts, da cui è stato tratto il film di cui abbiamo parlato diffusamente, Miss America, e entrambi i libri sono stati successi di vendita, di critica. Poi ha fondato una compagnia fotografica, ha fatto mostre lui stesso dei suoi scatti, è stato giudice nella trasmissione America Got Talent, e proprio con Simon Cowell, l'ideatore del Forma, si è conteso a lungo la palma di uomo più pagato della televisione. E lo stile provocatorio senza limiti di Howard Stern, che ha fatto scuola, diciamo, e molto spesso ci sono stati dei conduttori, diciamo, radiofonici che hanno applicato anche a loro modo, con la loro personalizzazione, uno stile di questo genere. E io ne ho uno vicino anche fisicamente, perché è, come dire, l'uomo di punta di Radio 24, Giuseppe Cruciani, creatore, conduttore della Zanzara, al quale do il benvenuto. Sono onorato, per una volta ti intervistano. Io sono onorato di essere accostato ad Howard Stern, soprattutto. Ecco, perché tu lo conosci bene il suo lavoro. Qual è la sua caratteristica che ammiri di più? Beh, Howard Stern è molto cambiato, perché io amo soprattutto il primo Howard Stern, quello prima del passaggio alla radio satellitare. Sì. Il primo era il più rivoluzionario, più provocatorio, più dissacrante. Adesso si è messo a fare il giudice a America's Got Talent. E quando diventi giudice ad America's Got Talent devi essere per forza un po' ecumenico, no? Certo. E lui ha sempre detto di non avere filtri. Quanto, secondo te, sia per lui che per te, quanto è frutto di costruzione, quanto è frutto di improvvisazione? Beh, un po' l'indole è quella. Sì, l'indole ci deve essere. Secondo me lui ha costruito molto questo personaggio. In America ci sono dei conduttori radiofonici, ce ne sono ancora, un po' meno rispetto agli anni 80, agli anni 90, che si chiamano i shock jock. Cioè sono i conduttori radiofonici che devono per forza scioccare, sì, andando in onda. Quanto questo sia frutto del proprio temperamento, del proprio carattere, quanto sia frutto invece di una costruzione, come dire, a tavolino, ovviamente non lo sapremo mai. Nel caso di Stern credo che ci sia una componente intorno al 70% di indole personale e 30% di costruzione. Senti, io quando ti ascolto molto spesso, ho quasi l'impressione ogni tanto che tu goda quasi di più quando qualcuno, non dico ti insulta, insomma, quando ti rendi conto di essere detestato da qualcuno, godi di più di quando ti rendi conto di essere amato da qualcun altro. Una delle caratteristiche principali di Howard Stern nel corso degli anni è quella di aver creato una sorta di divisione in America, in quel caso, tra chi lo considera un genio, chi lo considera uno che ha rivoluzionato il mondo della radio, il linguaggio della radio, e chi invece pensa che sia un personaggio volgare, un personaggio da disprezzare, un personaggio che ha trascinato un sacco di ragazzi magari fare cose turpi, eccetera eccetera. Io adesso in piccolo forse la stessa divisione, cioè in Italia, per quello ma che ci sono, hanno realizzato da poco delle magliette "io odio Cruciani", no? Sì. Io non è che amo essere odiato, però è nei fatti che se tu dici sempre tutto quello che pensi, queste cose magari sono anche un po' estreme in alcuni casi, io non le considero affatto estreme, ma qualcuno le può considerare estreme, provoca quello che si può chiamare odio, astio. Poi bisogna vedere quanto questo qua si concretizza nella realtà, perché un odio, diciamo, spesso, che, come sai, sì, certo, c'è sul web certo, e su internet, che vale per quello che può valere. Ma la gente ha bisogno di odiare qualcuno nella vita? Ma cioè, tutti noi abbiamo bisogno di nemici in qualche modo, di qualcuno a cui ci contrapponiamo, qualcuno che affrontiamo, qualcuno da cui ci distinguiamo. Poi naturalmente questi nemici possono essere anche persone con cui magari una volta vai a cena, però certo, tutti noi abbiamo bisogno di un contrario, abbiamo bisogno di un nostro opposto. per dire io sono diverso da quello. Naturalmente tra questo e l'odio c'è una differenza. In ognuno di noi c'è un parenzo, cioè ci vuole un parenzo, esatto, vicino. Per forza, anche tu avrai un tuo... Un parenzo, sì. Sì, avrai un tuo parenzo. Beh sì, non sono riuscito a farne una star, però anch'io ho dei parenzo che mi stanno a fianco. Senti, una delle tue capacità più grandi, secondo me, è quella di tirare fuori il peggio, da, cioè la parte becera di chi viene, la parte cattiva, la parte che questo non ha, che altri non riescono a fargli confessare, tu riesci a tirarla fuori, e credo sia la tua forza, anche se poi questo ha fatto fare anche delle brutte figure a qualche tuo, sì, ospite. Per tornare a Stern, per non parlare di me, io ricordo delle interviste che ha fatto con Trump, prima naturalmente che si candidasse, prima che si candidasse, che sono state molto ricliccate in questo periodo, naturalmente. Certo. In cui lui parlava di sesso, ma non liberamente, di più. Non Stern che adesso non Trump? Ne... Trump. Non che adesso non ne parli. Però ovviamente deve... Ne parla un po' meno, magari risponde a qualche battuta, e diceva delle cose terribili, che avrebbe fatto sesso volentieri con Lady Di, questo dopo la morte. Diceva, parlava del sesso orale in maniera molto esplicita, dicendo che lui non piaceva il sesso orale, caso forse un più unico che raro. Mi dispiace ci siamo molto dispiaciuti per Trump. E questo non significa necessariamente tirare fuori la parte cattiva, significa semplicemente tirare fuori quella che si spera sia la parte più recondita, la parte nascosta, certo, quella che noi non vorremmo dire in pubblico. Sì. È un'operazione ormai complicata perché il gioco è scoperto, e però ancora ci sono margini, come sai. Ci sono margini, ancora c'è qualcuno che... Che c'è, e allora no, io... qualcuno che no, non qualcuno che si sottopone... Ma qualcuno che magari in un discorso viene portato a dire certe cose che non vorrebbe dire, e che magari si è già prefissato di non dire, perché dice no, vado alla zanzara, lo devo stare attento, capito? Certo. Però queste sono le persone che io non voglio più. Cioè, se una persona sta attenta, allora se una persona gioca come giochi tu, per esempio, certo. Ti capita di dire una cosa, ma magari te ne penti due secondi dopo. Sì, da ascoltatore spesso ho intuito che qualcuno si era pentito, ma ormai era troppo tardi. Grazie, esatto. Giuseppe, ti ringrazio infinitamente. Grazie a te, ciao. Da sempre Howard Stern definisce se stesso re di tutti i media. 10 anni fa ha fatto registrare il marchio King of All Media. Dice di averlo fatto per scherzo, di non pensare di esserlo, però è vero o no, nel 2012 è entrato a pieno titolo nella National Radio Hall of Fame. Il volo di Howard Stern, quasi ininterrotto, fatto di battaglie, di provocazione, di difficoltà, ma di grandissimi successi economici e non, e affrontati con la sua spavalderia e col suo anticonformismo. Insomma, ha volato veramente in alto, e anche i bonifici che gli sono arrivati molto, ma molto in alto. Se volete mandarci i vostri commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, e poi c'è il podcast se volete riascoltare delle puntate che avete perso, o se qualcuno vi ha detto ascoltati proprio quella puntata lì, fatelo. E poi se volete ci sono i nostri social, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.